Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11:07. Abbiamo pronto il nostro sommario che andiamo subito ad ascoltare insieme. Respira, sei in montagna. Creme solari, istruzioni per l'uso. Obiettivo, serenità. Oggi si sale, amici, andiamo in montagna. Ci aspettano panorami mozzafiato, aria pura, boschi, sentieri e speriamo anche tempo per dedicarci al nostro benessere. Come ogni venerdì abbiamo, questa volta in linea, ma forse ci raggiungerà qua in studio, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Posso dire grande appassionato di montagna? Sì, grande appassionato di montagna, lo possiamo dire, senz'altro. Allora, dottor Confalonieri, noi possiamo sicuramente dire, e gli amanti della montagna lo possono confermare con i loro messaggi al 349-238-6666 oppure chiamandoci all'824-0024, che una vacanza in montagna ci dà la possibilità di impostare la nostra vita in una direttrice più sana, aria buona, tante possibilità di praticare attività sportiva, insomma proprio quello che ci vuole per rimettere in forma. Ma la montagna è anche una palestra per la nostra mente, perché stimola i sensi, aiuta a mettere in atto delle strategie, impone anche il confronto, questo è importante, con le nostre capacità, i nostri limiti. Anche questo, dottor Confalonieri, che con lei noi parliamo sempre di allenamento, è una forma di allenamento. Sì, diciamo che la montagna è stata definita bene, è una palestra naturale straordinaria, innanzitutto perché dal punto di vista del clima allena di per sé, nel senso che l'altitudine a partire dai 1200-1400 in poi è di fatto allenante, perché riducendo la disponibilità di ossigeno migliora naturalmente, facendo anche quella che è la normale vita di relazione, la nostra resistenza e le capacità del nostro sistema cardiovascolare. E poi al di là di quello, la montagna offre mille opportunità di sport a diverse intensità, estremamente piacevoli, quindi rappresenta davvero uno scenario ideale per il benessere. Allora, dottor Confalonieri, noi andiamo in montagna, se voi ci siete già, chiamateci 824 0024, se vi state preparando anche voi, facciamo il viaggio insieme. E a noi si è unita la professoressa Annalisa Cogo, docente di pneumologia all'Università di Ferrara, pneumologa e docente al corso di perfezionamento in medicina di montagna dell'Università di Padova. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a lei. Professoressa, lei è una grande esperta di medicina della montagna e io la chiamo proprio mentre lei è in vacanza in montagna, quindi io sono un po' una seccatrice, ma lei è proprio l'ospite ideale perché è lì, no? Sul luogo. Esatto. Intanto si faccia un bel respiro anche per noi, perché proprio l'aria leggera e frizzantina della montagna invita già proprio subito a respirare a pieni polmoni e questo sembra produca subito un effetto. Professoressa. Sì, beh, l'aria in montagna è più secca, meno umida rispetto a quello che è in pianura, l'aria in montagna è più fresca e tutte queste caratteristiche ovviamente sono sempre più evidenti più saliamo, perché a partire dagli 800-1000 metri ogni dislivello che noi facciamo queste modificazioni sono sempre più evidenti, quindi l'aria è meno umida, l'aria è meno densa, cioè le particelle di gas dell'atmosfera sono più rarefatte, questo rende più facile respirare e quindi questo può essere un aiuto anche per chi ha delle patologie respiratorie e trova più facile respirare a queste quote che sono comunque diciamo quote ancora abbastanza basse, cioè intorno ai 1000-1200 metri. E poi c'è questa ridotta umidità dell'aria, ci agevola anche per un altro motivo, perché l'acaro della polvere, il dermatofagoide, che è uno dei maggiori responsabili dell'asma allergico, soprattutto nei bambini, nei ragazzini, non riesce a vivere in questo clima che è più secco, ha bisogno di umido e quindi sopra i 1500 metri non riesce a sopravvivere. E questo è facile intuire come sia una notevole agevolazione per i soggetti asmatici che non sono più esposti a questo irritante, a questo allergene che è appunto irritante e può scatenare delle crisi asmatiche. Quindi c'è tutta una serie di motivi per i quali respirare in montagna, perlomeno a quote moderate, è più facile, diciamo così, rispetto alla pianura. Ci aiuta anche il clima più fresco rispetto, esatto, al mare, alla campagna, e questo sicuramente aiuta. Ma voglio leggerle subito un messaggio di Carla, che vuole sapere se è vero che la montagna giova ai soggetti lievemente anemici. E dunque mi riallaccio, certo, a quello che era stato detto prima sulla riduzione dell'ossigeno, perché la riduzione dell'ossigeno, che comincia appunto intorno ai 1000-1200 metri, induce nel nostro organismo una risposta di emopoiesi, cioè il nostro organismo è spinto, è indotto a produrre più globuli rossi. Questo a partire, diciamo, però dai 1500-1800 metri. Quindi per chi è leggermente anemico questo sì è favorevole. E anche questi globuli rossi, favorendo un maggior apporto di ossigeno ai muscoli, giovano sicuramente anche agli sportivi, tanto che il dottor Confalonieri ha detto in montagna, no, è una palestra ed è più piacevole, più bello anche allenarsi. Professoressa Kogo, conferma? Assolutamente, qui però entra in gioco un discorso molto importante da sapere, cioè il discorso delle diverse altitudini. Ecco, perché montagna volevo arrivare va, lì. Sì, la montagna va da 800 va a 8000 metri. Ecco. Vogliamo dare un po' delle indicazioni, perché ci sono rilievi e rilievi, e noi sappiamo che in montagna va la persona non allenata, l'alpinista di elite, il giovane arrampicatore, l'anziano, il bambino, la persona magari con patologie croniche. L'altitudine, esatto, può fare la differenza, professoressa Kogo. Assolutamente sì, infatti la cosa importante da sapere, come dicevo anche all'inizio, è che salendo di quota tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto e che abbiamo detto diventano sempre più evidenti, quindi il clima è sempre più secco, è sempre più freddo e soprattutto l'ossigeno scarseggia. Quindi la montagna viene divisa in fasce e diciamo che intorno dai 1000 ai 1500 metri più o meno non ci sono delle grosse controindicazioni, a parte persone con gravi patologie cardiorespiratorie, ma sì, a quelle quote la montagna fa bene a tutti, fa bene all'anziano, fa bene al bambino. Oltre i 2000-2500 metri invece dobbiamo cominciare a fare delle distinzioni, soprattutto se a quella quota ci vogliamo fermare a dormire, perché se noi facciamo una gita e poi ritorniamo a valle a dormire difficilmente abbiamo problemi. Il problema sorge quando noi invece trascorriamo anche la notte sopra i 2500-3000 metri. Però in quella fascia che viene considerata altitudine moderata, quindi 1000-1200-1500 fino a 2000 metri, ripeto, sono molte di più le indicazioni rispetto che alle controindicazioni. Invece salendo dobbiamo fare più attenzione, soprattutto mai salire all'improvviso, ma esatto, più si sale in quota più dobbiamo regalarci degli step. Eh sì, io dico sempre che la montagna è l'elogio della lentezza, in realtà purtroppo il tipo di vita che noi facciamo spesso ci impedisce di seguire questo lento avvicinamento. In realtà se vogliamo salire, soprattutto se vogliamo pernottare al di sopra dei 3000 metri, l'ideale sarebbe raggiungere a piedi questa quota piuttosto che prendere una funivia che ci porta già a 3500-3800. Dobbiamo essere consapevoli che se saliamo molto rapidamente possiamo, non è sicuro, ma possiamo andare incontro a dei sintomi di mal di montagna. Lei è una buona camminatrice, professoressa Kogo, che della montagna sa tutto? Sì, a me piace tantissimo. Io cammino, seguo proprio la regola, i primi 20 minuti camminare piano in modo da far partire il motore, diciamo così, sì, e poi camminare lentamente cercando di tenere un passo che sia sempre, che sia molto regolare. Questo per l'escursionista medio, poi se uno invece vuole fare dell'allenamento allora farà anche degli allunghi, dei pezzetti di corsa, ma chi fa l'escursione normale, diciamo, sì, senza mire di allenamento, dovrebbe tenere un passo lento calcolando di riuscire a sempre a parlare, cioè bisognerebbe sempre stare al limite tra il riuscire a parlare e non riuscire, cioè quindi avere sempre una piccola riserva di fiato. In questo modo si riesce a camminare per ore. Dottor Confalonieri, quindi è meglio andare in coppia almeno in montagna, no? Così si fanno le prove. Che dice lei? Assolutamente, questa regola del parlare, che è una regola mutuata, se vogliamo, dagli allenamenti della corsa, è totalmente condivisibile, nel senso che è un limite fisiologico rispetto allo sforzo che ci porta in ambito anaerobico, in ambito lattacido, e quindi uno sforzo difficile da recuperare. Qui io consiglio sempre, da un lato, di osservare questa regola del parlare, dall'altro la regola dell'intervallo, cioè la pausa consente di recuperare, consente di ripartire. C'è il trucco di tanti come me, non tanto allenati, della fotografia ogni tanto. Ecco. Questo trucco è estremamente importante per chi affronta per le prime volte le camminate in montagna, cioè fermarsi ogni tanto con la scusa della fotografia, sì, va molto bene, perché ci consente di recuperare non troppo a lungo, in modo che restiamo attivati, e poi di ripartire. Quindi essere sempre in grado di parlare e fermarsi ogni tanto a fare una fotografia. Professoressa Kogo, faccia una foto per noi e poi ce la manda. Senz'altro, senz'altro. Grazie alla professoressa Kogo per essere stata con noi. La lasciamo tornare in vacanza. Grazie. Grazie ancora. Dottor Confalonieri, adesso che abbiamo fatto una sorta di tagliando, noi siamo pronti per muoverci, passeggiate, arrampicate, gite in mountain bike, più ne ha più ne metta. Anche i nostri amici potranno aiutarci chiamandoci all'824 0024, suggerendoci anche, no, dei modi per vivere in sicurezza e in pienezza la montagna. Ma dottor Confalonieri, anche se lei non è oggi qui in studio con me, noi stiamo aspettando le sue domande di rito. La domanda di rito è proprio questa: avete scoperto, avete utilizzato la montagna come palestra? Cosa avete fatto? Perché avete fatto questa scelta e come vi siete trovati? Diciamo che ancora questa volta utilizziamo un po' i nostri ascoltatori come trainer, come allenatori di tutti gli altri nostri ascoltatori. Quindi vorremmo proprio partire dalle loro esperienze per mutuarle e per dare dei consigli importanti a tutti coloro che magari stanno partendo per una vacanza in montagna. Allora, diventate trainer 824 0024, potete anche farlo scrivendo al 349 238 6666. Una mela al giorno. E intanto che salite, ricordate che il sole picchia in montagna, quindi proteggetevelo, ma fatelo anche se andate al mare, al lago, visitare una città d'arte. Allora, perché noi vogliamo cercare di prendere solo il bello dai baci del sole. La raccomandazione arriva puntuale, lo sappiamo, ogni anno dai dermatologi, che invitano ad esporsi con buon senso e adeguatamente protetti. In linea con noi abbiamo il professor Giovanni Leone, dermatologo, responsabile del servizio di fototerapia dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei. Allora professore, noi stiamo andando in montagna e ci auguriamo di avere bel tempo. Lei, oltre ad augurarci una buona vacanza, quali consigli ci può dare? E sono consigli molto qualificati, perché insieme alla sua equipe voi siete proprio saliti in quota, avete fatto delle ricerche molto interessanti proprio sulla montagna. Guardi, mi ha fatto piacere, ho sentito che poco fa è intervenuta la professoressa Annalisa Kogo, che conosco bene, e proprio con loro, con la commissione medica del Club Alpino Italiano, nel 94 abbiamo fatto degli studi sulla intensità dei raggi solari in cima al Kilimangiaro. Poi sì, nel 96 abbiamo fatto una spedizione in Himalayana nel gruppo dell'Everest fino a quasi 7000 metri, quindi dal punto di vista del sole in altitudine la nostra equipe ha pubblicato dei lavori, ha fatto degli studi. Quindi, venendo in sintesi al consiglio per il gitante, l'escursionista, possiamo dire innanzitutto che ogni 1000 metri di altitudine l'intensità dei raggi solari aumenta del 12% circa. Quindi quando andiamo a 3-4000 metri abbiamo un aumento dell'intensità dei raggi che equivale più o meno al 50% rispetto a quello che abbiamo a livello del mare. Quindi questo è importantissimo. In più ci possiamo mettere, nel caso ci sia la neve o il ghiaccio, il ghiacciaio, sì, tipo vediamo sci estivo, roba del genere, un altro quasi 100% di riflessione dovuto alla superficie della neve. Quindi questo che cosa significa? Che il sole in alta montagna è molto più pericoloso che a livello del mare. Se poi ci mettiamo la latitudine, quindi l'equatore, vedi Kilimangiaro, roba del genere, arriviamo a dei livelli veramente pericolosissimi. Quindi il consiglio è di aumentare i livelli di protezione rispetto a quelli che siamo abituati ad applicare sulla spiaggia a livello del mare, e proteggersi applicando molto frequentemente in gran quantità la crema in montagna. Quindi di frequenza e la quantità corretta di prodotto, tante volte lesiniamo oppure ne mettiamo troppa. Diamo un po' delle misure? Guardi, il pericolo di metterne troppa non esiste, è meglio metterne troppa perché i prodotti solari sono testati in laboratorio con una quantità molto elevata che noi difficilmente riusciamo a riprodurre nella vita reale, quindi metterne troppa non è un pericolo, il pericolo è metterne troppo poca. Senta professore, ma i filtri contenuti nei solari possono dare effetti collaterali? C'è il rischio che possano nuocere alla nostra pelle? Guardi, ci sono dei casi molto limitati in cui soprattutto i filtri chimici possono dare delle allergie cutanee o delle intolleranze a livello della pelle. Questo accade nei soggetti che già sono predisposti alle allergie cutanee, sì, che hanno la pelle irritata, hanno già in atto delle dermatiti. In questi casi sarebbe preferibile usare dei prodotti che contengono solo filtri fisici, quindi microparticelle come il diossido di titanio e l'ossido di zinco. Lo leggiamo però in etichetta, vero professore? Sull'etichetta, certo, però sono casi molto limitati, quindi io non generalizzerei. Allora, professor Leone, io approfitto della sua presenza con noi per sottoporle il caso del dottor Confalonieri. Dottor Confalonieri, lei con il sole ha avuto proprio qualche problema, non in montagna ma al mare, vero? Sì, ho tuttora dei grossi problemi, nel senso che ho un eritema. Si apre allora l'ambulatorio, eccolo. Gentilissimi, io ho un eritema localizzato a livello della base del collo, per cui adesso, mentre tutta la mia vita non ho mai avuto problemi, adesso ogni volta che mi espongo al sole in quella zona si sviluppa una reazione appunto eritematosa e poi questa determina un'allergia generalizzata con tutte le problematiche legate all'allergia generalizzata. C'è una via d'uscita o devo aspettare di desensibilizzarmi? O deve venire a Radio 24 tutti i giorni chiuso senza andare in vacanza? Ecco. Ecco, professor Leone. Sì, allora guardi, nel caso del dottor Confalonieri probabilmente, però non ho elementi più certo precisi per poter fare una diagnosi corretta, si tratta di quella che noi chiamiamo una lucite o dermatite polimorfa solare, sono delle forme di intolleranza al sole molto frequenti, la comune massaia lo chiama l'eritema solare e c'è un fenomeno di adattamento più ci si espone qualche volta, però per fare una diagnosi corretta, per esempio presso il nostro centro facciamo dei fototest con varie lunghezze d'onda UVB, UVA per determinare qual è eventualmente la lunghezza d'onda responsabile e poi si procede a una terapia con degli integratori per via orale, ovviamente la prescrizione di creme solari ad altissimo fattore di protezione più potenziate nell'UVA o nell'UVB a seconda di quello che risulta dai test e nella peggiore delle ipotesi, proprio un ultimo step, si ricorre alla desensibilizzazione con la fototerapia, cioè sedute progressive tipo vaccino per far capire agli ascoltatori che desensibilizzano la cute. Quindi partendo proprio dal caso del dottor Confalonieri abbiamo dato delle indicazioni a chi si ritrova a così combattere questa sorta di quello che noi chiamiamo genericamente eritema che può insorgere anche in persone che prima non avevano mai avuto nessun problema. Professor Leone, io la ringrazio per essere stato con noi, noi continuiamo la nostra gita in montagna e intanto invece a lei buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Pronto soccorso. Dottor Confalonieri, immagino che tra i nostri amici ci siano molti amanti della montagna e a loro chiedo di regalarci subito un'immagine capace di raccontare la sensazione di benessere, lasciatemi dire anche di fascino, di magia, di pienezza che la montagna sa regalare. Devo dire che l'ispirazione a questa richiesta me la suggerisce Aldo, che mi ha mandato un SMS pregandovi di leggerlo. Per ricordare, mi scrive un grande alpinista, Emilio Comici. Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le miserie terrene. Tutto questo perché siamo più vicini al cielo. Dottor Confalonieri, io ringrazio sicuramente Aldo e tra poco ci raggiungerà anche Simone Moro, quindi io lo annuncio ai suoi fans, che sono davvero tanti. Intanto, dottor Confalonieri, questo messaggio ci porta il cuore in alto. Sì, è un messaggio molto bello che ci fa entrare un po' nella dimensione della montagna. Io però vorrei sottolineare un altro aspetto, cioè molto spesso si associa la montagna soltanto all'alpinismo estremo, alle grandi altezze. Invece vorrei proprio coinvolgere i nostri ascoltatori rispetto a un utilizzo, passatemi il termine, della montagna anche per chi magari non ha grandissime capacità, non ha grandissimo allenamento, ha dei limiti fisici anche importanti o significativi, perché la montagna può essere camminare e camminare anche relativamente poco, può essere la mountain bike, certo, può essere tutto sommato anche nuotare, per esempio andare in montagna laddove ci sono stabilimenti termali o piscine ed abbinare la vita ad alta quota con tutta una serie di allenamenti rigeneranti per quella che è la nostra struttura, come può essere l'alpinismo praticato a diversi livelli di difficoltà. E quindi davvero sarebbe importante pensarla come una palestra che ci offre naturalmente tutta una serie di opportunità straordinarie. Ecco, noi potremmo tratteggiare, dato che Arnaldo mi scrive la montagna piace e fa bene perché una vacanza in montagna paga i cinque sensi, io intanto che lei ci raccontava tali cose che si possono fare in montagna ho preso appunti per tratteggiare cinque profili ideali a cui noi possiamo rivolgerci. Il primo è quello della persona giovane, dinamica, che vede la montagna come l'occasione per misurarsi e allenarsi. Il secondo magari è quello della persona più meditativa, che cerca nella montagna un rifugio per ritrovare se stesso. Metterei nel terzo profilo, dottor Confalonieri, se è d'accordo, quello della persona che quest'anno vive la montagna come una palestra, ma di riabilitazione, penso a chi ha subito un piccolo intervento, fa ancora i conti con gli esiti di un trauma. C'è chi però va anche in montagna per sfuggire al caldo cittadino, respirare aria buona, assaggiare le specialità del luogo, insomma più godereccio. E come quinto profilo, come il quinto dito della mano, è il bambino, no? Il mignolino, il cucciolo di casa, perché dottor Confalonieri, approfitto della puntata di oggi perché, dato che le nostre donne dicevano che la montagna fa diventare grandi, anche in montagna i bambini hanno davvero tante occasioni per misurarsi e per così godere appieno di questa palestra naturale. Dottore, che cosa dice? Ce la facciamo? Mi piacciono molto questi cinque profili, poi magari ritorneremo su ciascuno di questi per dare dei consigli, cioè per ciascuna di queste persone cosa è meglio fare e perché durante una vacanza in montagna. Mi piace in particolare la sottolineatura del ruolo che può avere la montagna per il bambino, perché per il bambino è una scoperta importantissima, indubbiamente dal punto di vista della natura, di tutte le cose che vede, che normalmente non vede se cresce in città, ma tutto sommato anche se cresce in campagna. E poi è una palestra straordinaria perché la montagna pone delle difficoltà motorie accessibili e risolvibili, che per il bambino diventano gioco e divertimento, ma che migliorano enormemente la sua intelligenza, le sue capacità coordinative, le sue capacità di usare bene il proprio corpo, per cui davvero da questo punto di vista la vacanza in montagna può essere uno strumento eccezionale. Abbiamo prima dei mercati la possibilità di sentire Luca da Reggio Emilia? In regia mi fanno un po' un segno. Veloce, Luca, buongiorno. Sì, pronto, salve. Luca, buongiorno. Io volevo porvi una domanda riguardo alle donne incinta, perché ho seguito un po' in internet, su diverse riviste ci sono diversi pareri. Sì. Alcuni dicono assolutamente la montagna no per la mancanza d'ossigeno, altri dicono assolutamente la montagna sì, perché comunque fa bene una camminata in orizzontale anche a 1800-2000 metri di quota. E lei dove vuole portare la sua moglie incinta? Di quanti mesi? Due. Come diceva la professoressa Cogo, ci sono altitudini, montagne e montagne. Dottor Confalonieri, prima di andare ai mercati, la portiamo? Sì, l'hai anticipato. Io direi, se teniamo come altitudine di riferimento 1200-1500 metri e la camminata la facciamo in pianura, non c'è nessun problema, anzi. Oltre i 2000 metri sicuramente in questa fase lo eviterei, perché comunque c'è una diminuita disponibilità di ossigeno e questa qualche problema lo può creare, quindi meglio aspettare dopo e andare col piccolo in fasce. È arrivato qua in studio il dottor Confalonieri. Devo dire che è una bella avventura. Intanto possiamo dare, sulla base proprio della sua esperienza vissuta in questi minuti, un'indicazione agli ascoltatori che ci milanesi, perché lei ha trovato veramente un groviglio di traffico. Sì, agli ascoltatori milanesi, se arrivate sulla via Novara, sulla strada statale 11, dalla tangenziale che parte da Settimo Milanese fino a Milano, è tutto completamente bloccato, quindi non avventuratevi su questa strada. E se ci siete, chiamateci 824 0024. Il dottor Confalonieri ha sfondato praticamente. Ho fatto tutta la corsia d'emergenza, ho detto che arrivavo in trasmissione, adesso vediamo cosa succede. Vediamo, ma noi andiamo da Rosangela, che ci chiama dalla provincia di Lecco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Rosangela. Siamo qua. Io sto partendo in questo momento per andare in Val Venosta, Alta Val Venosta. Magnifico. Inizia le sue vere vacanze oppure sarà solo un fine settimana? Solo per il fine settimana, per staccare dall'attività lavorativa, dal caldo soffocante che c'è in questo periodo qui da noi. Ma lei è una sportiva, Rosangela, o va solo un po' a prendere il fresco? Allora, non sono sportiva, perlomeno sì, mi piace camminare, faccio molta fatica però a fare i rifugi, quello sì. Ecco, il fiato non resiste, cioè proprio mi vengono dei fiatoni incredibili. Allora, Rosangela, io penso che con la sua telefonata noi possiamo affrontare con il dottor Confalonieri la classica situazione. Vorrei, ma non ce la faccio, vorrei ma non posso, non ho fiato. Ecco, adesso Rosangela forse in un fine settimana non riesce proprio ad allenarsi, ma se il soggiorno in montagna dura almeno una settimana ci si può allenare, e quindi possiamo rispondere anche agli ascoltatori che mi dicono: dopo anni di inattività vado in montagna, non voglio rimanere seduto nel giardino dell'albergo, voglio muovermi ma ho paura di non essere sufficientemente allenato. Gradualità, questa è la parola magica. Me l'ha portata via. D'altra parte, conoscendomi, direi che questa idea del rifugio è proprio l'idea sulla quale dobbiamo ragionare un pochettino tutti. Perché la montagna di per sé è allenante, ma è anche impegnativa. Quindi va affrontata proprio con prudenza e con attenzione. Se la nostra vacanza ha la formula del weekend, evitiamo l'idea della gita, magari anche facile, magari tecnicamente non impegnativa, che però prevede tante ore di cammino e l'arrivo al rifugio, perché magari con l'idea facciamo una serata diversa, facciamo una notte diversa, arriviamo in rifugio, mangiamo, beviamo e stiamo insieme, ci troviamo a dover affrontare qualcosa che è troppo impegnativo per il nostro fisico, nel senso che da un lato l'altitudine, dall'altro la salita impegnano molto di più di quanto si possa pensare. E hai voglia di far foto, Bravissima. Ecco, quindi l'idea è proprio questa. Se andiamo per un periodo sufficientemente lungo, e la settimana è il periodo minimo, 10 giorni, forse anche meglio, avviciniamoci gradualmente a quella che può essere la passeggiata finale. Cominciamo con un'ora e mezza in pianura, incrementiamo gradualmente, magari un giorno sì, un giorno no, cioè lasciamo al nostro organismo e soprattutto ai nostri muscoli la possibilità di assorbire lo sforzo del giorno precedente, e dopo 8-10 giorni saremo in grado anche di fare le 3-4 ore che ci portano in quota e che ci portano al rifugio. Se invece lo dobbiamo affrontare in giornata, meglio evitare. Alberto ci chiama da Roma, buongiorno Alberto. Pronto? Alberto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ma buongiorno, noi siamo a tutti. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre con passione tutti i giorni dal lavoro. Io volevo portare il mio contributo perché, come dicevate prima voi, io utilizzo la montagna come palestra, perché io sono un preparatore atletico di una squadra di arbitri, di una sezione arbitrale, naturalmente arbitri di calcio. Sì. E volevo appunto portare il mio contributo, ma volevo fare anche una domanda tecnica al dottore. Dunque, io utilizzo essenzialmente la montagna come piacere, perché per me la corsa è un piacere, mi diverto e soprattutto mi rilassa, perché recandomi spesso nei monti abruzzesi, circa sull'Appennino, alle circa 1600-1700 metri, in dei posti fantastici, dove ci sono io e ogni tanto qualche mucca o qualche animale lasciato in alpeggio, e la uso essenzialmente come ritiro per la stagione sportiva che poi partirà, tant'è vero che partiremo le prime settimane di agosto. Sì, Dica. No, volevo chiedere, quindi voi vi allenate e quindi il dottor Confalonieri come può esservi d'aiuto? Allora, io volevo sapere, appunto, volevo fare questa domanda. Come dicevo, io la uso essenzialmente come capacità aerobica, anche perché effettivamente mi permette anche di rilassarmi e di stare a contatto con la natura. Però, per quello che poi è la nostra attività, tenendo presente che faremo corsa lenta, che poi, avendo un gruppo che è abbastanza dissimile, quindi potremmo avere delle andature che possono variare dai 5,5 a 6 a chilometro, mi consiglierebbe eventualmente di fare un pizzico di interval training su in altura, tenendo presente che poi io la velocità la continuo, la comincio a fare, la velocità sulla potenza aerobica in pista, tornando naturalmente in città e quindi allora, scendendo. Dottor Confalonieri, rapidamente per Alberto. Sì, cercando anche di chiarire il concetto, di renderlo più semplice. Sicuramente la base aerobica, che poi è la resistenza, quindi un condizionamento di base dell'apparato cardiovascolare, il miglioramento della resistenza lo otteniamo attraverso le camminate prolungate o le corse lente un pochino meno prolungate, e da questo punto di vista la montagna è ideale. Facendo un lavoro intervallato, quindi alternando momenti di lavoro a momenti di recupero, quello che è stato definito come interval training, può andar bene. Io, per questa situazione, che poi è la situazione tipo della persona mediamente allenata che vuole incrementare il suo livello di forma attraverso la vacanza in montagna, proporrei di utilizzarlo, però utilizzando proprio la salita, cioè farei delle camminate piuttosto delle corse lente in salita, anche brevi, con un recupero adeguato, quindi un interval training che alleni da una parte l'apparato cardiovascolare, perché dobbiamo camminare o correre in salita, ma che dall'altro lato alleni anche la forza, proprio attraverso l'impegno dei nostri muscoli nell'esercizio della salita in montagna. Così raggiungiamo due obiettivi con un unico tipo di allenamento. È il paradiso per gli appassionati della mountain bike, la montagna. Noi abbiamo dedicato proprio una puntata su due ruote, ma ci sono tanti, tanti ascoltatori che mi dicono: parlatene, dite che è il posto ideale. Dottor Confalonieri, l'abbiamo in parte già detto nell'altra puntata, ma... Beh, si chiama mountain bike, lo dice la parola, per non essere troppo banali, però mi sembra giusto sottolinearlo. Sì, da questo punto di vista mi sentirei proprio di dire che non è il paradiso solo per coloro che già sono appassionati di mountain bike, ma anche per coloro che magari hanno questo desiderio di conoscere, di esplorare, di vedere nuovi panorami, di fare fotografie diverse, quello che ci dicevamo prima, e indubbiamente la velocità media di spostamento in bici è molto maggiore della velocità media di spostamento a piedi. E quindi se noi scegliamo dei percorsi relativamente facili sul piano tecnico, quindi non troppo impegnativi in salita, per cui bisogna essere allenati, non troppo impegnativi in discesa, per cui bisogna essere abili tecnicamente, ma dei percorsi medi, la mountain bike ci consente di allenarci, di stare meglio e di esplorare scenari ed orizzonti molto più ampi di quelli che possiamo esplorare semplicemente camminando. Quindi sicuramente il mio consiglio è: scoprite la montagna anche attraverso la bicicletta. E noi ci arrampicheremo anche. In linea con noi abbiamo Simone Moro. Simone, dalla Grecia. Sì, ciao, ciao, ciao. Cosa, adesso tu sei in Grecia? In vacanza? Sì, in Grecia, no, ho trovato il posto dove posso avere il connubio tra relax e attività sportiva. Sono su un'isola molto poco famosa, perché tutti vanno a Rhodes, a Skiathos e altre isole. Io sono su Kalymnos. Kalymnos è un'isola di fronte a Kos, tanto per capire dove è situata, ed è il paradiso, quest'isoletta dell'arrampicata sportiva, quella che veniva conosciuta come il nome di free climbing, cioè dell'arrampicata sulle rocce e su pareti non di altissima, non altissime, quindi sono alte dai 20 fino ai 50, anche 100 metri, dove si può affinare il gesto tecnico. E quindi qua io vengo sia per arrampicare, soprattutto quando rientro dalle spedizioni, che sono stranamente giù di forma. Uno può pensare che quando uno torna dalla spedizione è al top della forma, e invece è esattamente il contrario, perché l'alta quota ti mangia tutte le energie, ti mangia i muscoli, e vieni a casa che pesi 7-8 kg di meno, ma solo di massa muscolare. E quindi io vengo qui per arrampicare, ovviamente mi alzo anche presto, perché tutte le mattine vado anche a correre, seguendo il vostro discorso dell'attività aerobica, per non soffrire troppo il caldo, mi alzo alle 5:30, un quarto alle 6, vado a correre i miei 15-20 km, doccia, vado a arrampicare e poi a pomeriggio si sta con la famiglia. E ti fai il papà, il marito e il papà. Il marito. Simone, resta con noi perché abbiamo bisogno di alcune informazioni tecniche per i nostri ascoltatori che già hanno scritto numerosi messaggi sapendo che saresti, avresti raggiunto. Simone, quindi un po' ti arrampichi, un po' fai papà, il papà, il marito, quindi delle vacanze in pieno relax, e io vorrei tornare su alcuni concetti che tu così ci hai mandato, perché con il dottor Confalonieri li sottolineavamo intanto che sentivamo le informazioni sul traffico. Dottor Confalonieri. Sì, quelli relativi alla perdita di peso, perché secondo me sono particolarmente importanti. Volevo fare due brevissime notazioni. La prima: la montagna da un lato è illusoria, perché in montagna, soprattutto in quota, parlo dai 1800-2000 metri in su, ci si disidrata e quindi uno pensa di perdere peso, poi torna in pianura e in 2-3 giorni lo recupera tutto, e quindi dico attenti, non illudetevi. L'altra invece è proprio inerente a quanto diceva Simone, cioè in montagna, soprattutto ad alta quota, ma in parte anche a quote più basse, aumenta il catabolismo muscolare, cioè la distruzione del tessuto muscolare. Quindi soprattutto per quei soggetti che sono al limite del sottopeso, che tendono a mangiare poco, che si allenano molto, attenzione, perché in montagna potete rischiare di entrare in un meccanismo per cui perdete tessuto muscolare, perdete massa magra, vi debilitate, andate in una situazione che non è sana e poi è difficile recuperare questo una volta che si torna a casa. Simone, consigli per chi è sportivo, vuole approfittare magari delle vacanze per arrampicarsi. Noi diciamo tutte le volte: attenzione, la montagna va rispettata e in montagna si deve usare sempre grandissima prudenza. Simone. Sì, è vero. Per prima cosa, si tende sempre a dare come consigli generali e generalisti il fatto che bisogna andare ben equipaggiati, e il fermarsi sempre solo questo concetto ha fatto sì che negli ultimi tempi io veda persone iperattrezzate, che abbiano tutto dell'ultimo grido. Però non basta comprarsi la corda o comprarsi un'imbragatura o comprarsi un moschettone se non lo si sa usare. Che è solo all'inizio, è come comprare una macchina ma non avere la patente, oppure comprare il costume ma non saper nuotare. E quindi farsi insegnare anche le tecniche con cui si va in montagna non è da sfigati, ma è da virtuosi, cioè farsi accompagnare da una guida alpina che fa quello dal 1 di gennaio al 31 dicembre sempre, o da un esperto, se questa parola esperto non è uno che va 3 volte più di te, ma è uno che ci va sempre o ci vive sempre in montagna, perché se uno vuole andare a fare escursionismo, ecco, non è che per forza uno deve andare a prendere una guida alpina, però deve andare chi la montagna la conosce. E invece troppa gente si compra magari le scarpette con la suola giusta o la giacca in Gore-Tex perfetta e dopo dice sono a posto, posso sono andare. Pronto, l'attrezzatura, ecco, sono vestito da scalatore adesso, esatto, vestito da scalatore e vado e gioco a fare lo scalatore, e poi capita quello che capita. Infatti riferendomi anche, non so, alla corda, il fatto di proseguire su un ghiacciaio in cordata, che è una cosa auspicabile e consigliabile, però non è tutto, perché se uno scivola e l'altro non è capace di arrestare la caduta, che ci lascia la pelle non è più uno ma sono in due, perché l'altro tira su anche il compagno. Quindi la prima cosa è capire che l'attrezzatura è necessaria, aiuta, è un primo importante passo, direi tassativo, ma il secondo stadio è saperlo usare questa attrezzatura. L'attrezzo più importante rimane il buon senso, e da questo slogan salta fuori un altro consiglio che voglio dare, è che la rinuncia è come farsi accompagnare non da sfigati ma da virtuosi, è meglio avere una paura in più piuttosto che una paura in meno. Quindi se uno vede che il tempo cambia e dice ma io credo che tutti vanno avanti, è meglio fare l'apparente figura dello sfigato di rarità che tornare indietro e poi magari non trovarsi in un temporale, cosa tipica dell'estate. Certo. Se uno rimane sotto un temporale con magari fulmini e saette, gli sfigati sono altri, sono quelli che invece hanno voluto continuare se la cosa era annunciata. Quindi io vorrei sempre dire che il fatto di far vedere che si ha due dita di cervello non è da persone che hanno limiti o hanno grosse paure. Io stesso ho rinunciato un sacco di volte anche arrivare in cima alle montagne del pianeta, anche se magari ero a 200 metri dalla cima ed era una scalata storica, ma guardavo loro, io ero troppo tardi, non volevo trovarmi fuori a fare un bivacco. Certo. Sono tornato a casa e sono ancora qui che la racconto dopo 44 spedizioni. Quindi mi piacerebbe sempre dare lo slogan di andare in montagna, divertirsi, godersela, perché la natura è montagna, però non c'è nulla che possa replicare un eventuale errore grave, perché quando è fatto è fatto, è fatto. E quindi sempre questo connubio è difficile dare un consiglio che ti rende immune per sempre, ecco, in montagna portiamo il cervello. Sì, il cervello copriamolo anche con un bel caschetto. È un bel caschetto. Grazie Simone, grazie tante, buona Grecia. Grazie mille. Grazie a te. Andiamo ad Adriano. No, è caduto Adriano. Dottor Confalonieri, con Simone ci siamo spinti in queste raccomandazioni che si rinnovano tutte le volte, eppure non bastano mai, proprio perché molte persone hanno paura di rinunciare. Come diceva Simone, vanno avanti perché ormai ci sono. Anche nell'allenamento funziona senza tanti rischi questo. Ci sono persone che vogliono allenarsi a tutto e a costo, tirano, vogliono sempre fare di più, non mettono certo a repentaglio la loro vita, però mettono un po' in seria difficoltà tutto l'apparato muscolare. C'è un po' questo desiderio, no? Finalmente arrivo in vacanza, finalmente ho tempo, finalmente posso sfogarmi. Dottor Confalonieri. Beh certo, direi che dalle parole di Simone Moro si può trarre un insegnamento che vale anche per l'allenamento a qualsiasi livello, e cioè se l'obiettivo è il superamento o il miglioramento dei propri limiti, dobbiamo partire dalla coscienza dei nostri limiti. Cioè il primo step è sempre dire ok, io valgo questo, io sono in grado di fare questo, e quindi per poter migliorare io devo partire dal mio livello di base. Questo vale per la montagna e vale per l'allenamento. Quindi partiamo facendo un'analisi ragionevole, di buon senso rispetto a quelle che sono le nostre potenzialità, e costruiamo un po' alla volta il nostro miglioramento. Allora, noi siamo saliti in montagna, auguriamo sicuramente una buona vacanza ai nostri ascoltatori. Io voglio oggi chiudere la nostra trasmissione con un consiglio di lettura tratto dal libro In Armonia, edizione Corbacci. Abbiamo parlato proprio di questa armonia che si ritrova a contatto con la natura. Questo libro si sviluppa in 9 principi per così dare equilibrio alla vita. Uno di questi è la serenità, quella che ci auguriamo riportiate anche nelle vostre vacanze. Buon ascolto, dottor Confalonieri, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti. Un saluto allora da Nicoletta Carbone, noi ci sentiamo domani con Questa casa non è un albergo. Non devi fare nulla, sì e basta. Non fare nulla, sì. Non c'è bisogno di scalare montagne o giacere in caverne. Non dico nemmeno sì te stesso, poiché tu non conosci te stesso. Ti basti essere. Esercitatevi a distribuire serenità ovunque andiate, immaginando che nel recipiente dentro di voi alberghino solo pensieri di pace. Offrite agli altri queste energie positive non appena possibile. Diventate un dispensatore di pace con i vostri colleghi, i vostri familiari e specialmente con le persone che amate. Lasciate il vostro ego all'esterno, dove non possa spegnere la fiamma della vostra candela. Quindi offrite a una persona con la quale solitamente discutete o non andate d'accordo un nuovo pensiero che nasca dalla luce. Hai espresso un ottimo punto di vista? Ci rifletterò, oppure grazie per avermi dato la tua opinione. Per me è importante ciò che hai da dire. Anche queste affermazioni potrebbero inizialmente confondere il vostro interlocutore. Voi saprete che vi state esercitando per diventare esseri di pace, regalando agli altri ciò che volete ricevere. Essere e benessere.